Va morto. Cioè, ponte nuovo invece di girare per andare a casa mia, ti giri a destra. Se faccio vini, ti presalti e dopo ti giri a sinistra. E ti chiami a sinistra. Oh Anthony, ma quanti lastrici ti metti nel camion? Io pure, ma sono pennato, quanti li siete messi? Beh, briciola, su che andiamo. Ok, devi mandare avanti. Signor Fede. Attento Luca, ci sei in ascolto? Chi è avanti? Ciao Giulio. Ciao. A casa sì? Io sono a casa. Andate. La giornata già era bella comunque. Non tutti hanno voglia di uscire. Bella, è nuvolosa, ogni tanto piove qua. Bella proprio non lo è. Ma lì da te piove di tanto in tanto? Sì, qui da me sì, ogni tanto accenna a piovere, a fare un po' di pioggia. Ne ho capito, no, qui no, qui ancora non ha piovuto, vabbè, è nuvoloso, questo sì, però non ha piovuto qui. Beh, vabbè, tu sei in campagna, quindi, da quelle parti è difficile che piove ogni tanto. Ma Sassa è già 4 giorni che temporale arriva da questa parte qua, poi prende e cambia zona. Lo so, lì da quelle parti, lo so, poi in altura come sei tu, è chiaro che arriva, qui magari un pochino di più tarda, però di tanto in tanto già si fa sentire anche qui. Ehi beh, la voglia, ma qua ieri ha fatto fuori, i tuoi, tutto ha fatto, vedi, figurati. Ieri sì, questo sì, no, ma oggi no, qua solamente nuvoloso e basta, niente di più. E vabbè, comunque, quanta propagazione che si sente, disturba questa propagazione. Ho fatto il suo adesso io, l'altra volta, l'altra sera sì, ho fatto un paio di exercise, ho fatto, ma dato che c'era, sentivo questa propagazione, ho fatto bene che sono entrato e pure sono andato via. Ok, sì, anch'io stamattina ho un paio di ricordi, di collegamenti, le ho fatte, ma una cosa brevissima, mi senza stare lì a tirare troppo alle lunghe, però ero in banda, canale 18 se ricordo bene, sì, infatti ero su quel canale lì, però dall'altra banda sopra questa. Ah, ho capito, e canali alti, diciamo bene. Mi piacerebbe la popolazione, è sempre pieno. Sì, è sempre pieno. Nonostante che io ho l'antenna molto bassa, però la sento ugualmente la propagazione. È abbastanza, in certi momenti è anche molto forte. Anche Santiago 9, 9, 5, 9, 10, addirittura più forte di quelli di Sassari. E figurati. Ok, beh lì ci arriva Ferro, e sei nato la bola tu, poi fronte a Monteoro, figura, ti fa da ripetitore Monteoro. Ma sono in basso, sono molto più in basso di Sassari, se puoi immaginare, qui siamo a 130 metri sopra il livello del mare, immaginati, siamo già a 90 metri, 90, 95 metri più basso di Sassari, poi dove sei tu, allora lì saranno 450 metri come minimo, 420, là, 430 più o meno, dove abiti tu, come altitudine. Mi sembra che 450, se non mi ricordo. Sì, lì, zona Serra Secca, sì, intorno a quella altezza lì, 4-4,50 sicuramente, non ci sono dubbi, quella è una bella zona. Dimmi una cosa, ma l'Enel ti dà fastidio o come QRM alla frequenza? Bene, mi tratto bene qua, c'ho il camionetta vicino da 15.000 che creano dei problemi, capito? Passano a neanche 100 metri, sono, lo sai dove abbiamo l'Andi, no? Quindi abbiamo l'Andi a casa mia, sono un centinaio di metri, non di più, e passano proprio, non ti posso dire, 10 metri più alti di quei caseggiati che hanno fatto i comunisti. In pratica io non so come diavolo gli sia venuto in mente di costruire di lì a quei costruttori, fare tutta la via. Avevo dovuto vedere quando hanno pensato la gru, perché lì è pericoloso. Io pensate come cavolo facevano a girarla, la gru, di lì. Secondo come girava, pigliava il capo in pieno. Buonasera. Non so, vabbè, anche lì si sta espandendo molto la città, non è solamente, anche lì stanno sempre più in alto stanno salendo, dunque sempre più vicino alle linee Enel. E vabbè, comunque cosa ci vuoi fare? È chiaro che la città si allarga, no? Si allarga sempre da tutte le parti, a nord, a sud, a ovest, a est, dappertutto. Per cui è il momento della cementificazione, c'è niente da fare, cemento. Infatti poi ci lamentiamo, c'è qualcuno che vuole entrare avanti, chi è? Stoppo le parole. Buonasera, ben ascoltato, Sassari da questa parte, stazione 1 Alfa Lima, in compagnia di Giulio. Ma c'è fatto. Ok. Buonasera collega Giulio dalla città di Sassari, che ti super saluta. Però non ho capito da quale città stai trasmettendo, perché avevo l'RFG per evitare un po' di QRM, soprattutto dovuto alla propagazione. Se mi vuoi dire da dove trasmetti, da quale città stai trasmettendo, ti ringrazio. Vai ancora collega. Isola galleggiante, caro Giulio, Sassari c'è un mio caro amico, ma capito? Ok, dal centro della Sicilia, ok. Sì, arrivi bene, però ci sono dei momenti purtroppo che il QRM è tanto alto che disturba un pochino la modulazione. Ok, ben ascoltato ad ogni modo. Ti mando avanti Antonello, sempre dalla città di Sassari, ma in una posizione molto più alta di dove sono io. Vai Antonello. Sì, già sono riuscito ad ascoltarlo. Poco fa, un momento non ti sopra nulla quando è entrato, che ti parlava sotto. Poi dopo che è scesa alla propagazione, comunque già lo sento con la Sicilia. Ha voglia, già arriva qua a Sassari. Ok Antonello, ciao, un abbraccio per te, ti ho ascoltato. C'è una questione più alta. Come si chiama? Dai Antonio? Ok, collega della Sicilia, ricambio la stretta di paletta, un abbraccio da parte mia, a risentirci presto, magari anche in ultime condizioni come in questo momento. Ciao ancora, salutoni, comunque Santiago 9+5 per te, la radio è buona, la radio è ultima, poi magari dopo che ti mando avanti Antonello mi puoi dare anche il mio QRK per cortesia, ti ringrazio. Comunque ti saluto nuovamente, ciao, a risentirci, una stretta di mano alle prossime. Vai Antonello. Sì, ciao Angelo, salutoni, ci sentiamo alle prossime. Buona DX e buona questa greca, non c'è problema. Ok, va bene, tutti e due arrivati. Ma comunque non è il problema è, io vado con un presidente. ciao Angelo di nuovo, salutoni ancora, alle prossime a riascoltarci in buonissime condizioni. Ciao ciao, vai Antonio per il finalino. Ok, ciao Angelo, ci sentiamo, pace giù anche a te. Ok, avanti giù. Ok, vabbè, la Sicilia la sentiamo molto, molto spesso, la sentiamo quasi tutti i giorni in questo periodo. Ma tu hai notato, Antonè, che la propagazione è durata tantissimo questa volta, non è solamente nei giorni estivi, eccetera. Addirittura io sento propagazione tutto l'anno qua. Forse è cambiato il tutto, non lo so come mai, Antonè. A differenza degli altri anni, se il tempo non era mite, non si arrivava. Invece oggi già da un anno e oltre che io sento sempre propagazione, se non un giorno ma l'altro sicuramente senz'altro. Vai Antonio. Sono le macchie solari, sono capito, quindi dipende tutto dal sole. Adesso poi a quanto sembra c'è una macchia solare grande quanto la terra, che tra poco verrà che ci annebbia tutto, rimaniamo senza propagazione per almeno 2 o 3 o 4 giorni. Si sta ingrandendo e hanno paura se ne facciaranno, perché lo scudo che abbiamo noi, i magnetico terrestre, si sta indebolendo. È questo che è. Vabbè, sì, beh certo che sì, ma è così, in effetti è così. Hai sentito, ci ha dato tutti e due lo stesso segnale, ci ha dato. Io perlomeno ho capito così, o Antonio, che confermi? Sì, tutti e due lo stesso segnale. Però dice il problema è la propagazione, ha detto. Poi nel segnale abbiamo tutti e due fonti, è uguale, arriveremo, non c'è nessun problema. Davvero. E beh, ben entrato anche a te. Giulio, non mi sento, devo essere paziente. No, ero nel 45 un po' lì, ascoltando, cappa. E vai tu al 45, vai, nel canale dei camionisti. Mica non ce ne sono più camionisti, tu devi rimanere in questi altri canali. Ma cosa stai dicendo? Se ti ho chiamato un po' caldo, non c'eri. Ma dico io, Luca, ti mettiti a piombo e a lenza anche. E dove mi ha chiamato? Qua forse. Ma io ero nel 45. E siamo per nessuno in hobby. Ma noi il canale monitor nostro è questo, già lo sai. Per cui tu sei il 45 e di tanto in tanto devi fare un saltarello qua, se no non ci puoi sentire. Vabbè dai. Luca, tutto bene? Sì, tutto il giorno acceso. Anche alle 4, poi sarà mezz'ora, una mezz'oretta, sono passato sul 45, capito? E allora giù. Infatti ti ho chiamato anche stamattina, non c'era nessuno. Allora ho collegato un Belgio, ho collegato e francesi, eccetera, ma solo per un istante, perché intanto già lo sai. Vabbè, quello del Belgio già mi capiva e io capivo lui, perché è un sardo che lavora lì e dunque mi ha... Poi il sardo mi ha detto di mangiare poco, mi ha detto. Io gli ho detto che era a dieta, per cui non dovevo mangiare molto. Ma per dire, no, e lui era in collegamento non so con chi, perché gli altri non li sentivo, ma lui lo sentivo molto bene dal Belgio. E poi più tardi ho agganciato anche la Francia, ma quelli non fischiano in francese, io il fischio francese non lo conosco, per cui non gli ho dato retta. Vai Antonè. Allora, in francese ci ho parlato l'altra volta con un francese, poi a posto di quello c'era anche l'altro, ho parlato con entrambi, poi ho preso e ho aggiornato perché ero stufo, ho fatto due ex e tutti e due lo stesso canale. A proposito, in banda ero però stamattina, Luca, in banda le chiamate all'estero, le ho fatte, ero in banda sul canale 18 USB. Va bene, le prendi Luca, aspetta che abbasso anche un po', così se no, ecco, così scalda anche di meno, anzi diciamo che non scalda quasi niente questo baracchinetto, va benissimo, soprattutto quando lo metto così a 2 watt come in questo momento. Vai Luca. No, probabilmente stamattina quando si è entrato in terrazzo stavo facendo quel restauro di quella radio là. Hola, la grande isola, l'isola drammatica, la provincia di Siracusa, di chiamati sta trasportando operatore di Mafra. Ti sentiamo, buonasera alla città di Sassari che ti aggancia e ti super saluta. Avanti l'amico, chi sei e da dove trasmetti? Roger Sassari, con il buon pomeriggio, la grande isola, l'isola della Sicilia, la provincia di Siracusa, come si chiama, a 54 km del sud della ponte. Ok, ti saluto l'amico in provincia di Vece, se ricordo bene, se ho capito bene, perché hai una radio forte, però non è che sia molto chiara, sinceramente, non so, forse un pochino di eco che non riesco a percepire chiaramente le parole. Adesso ti mando avanti gli altri amici che siamo qua. Avanti Luca per l'amico forse in provincia di Vece, non ho capito bene, vai. Boh, non lo so, mi sembra Siracusa, ho capito. La Sicilia è Siracusa. Ah, ha detto Siracusa, ha detto, non l'avevo capito bene. Avanti collega di Siracusa, con il tuo nome nativo Giulio da questa parte, in compagnia di Luca e Antonello. Avanti per chi vuoi andare tu. È caduto Luca, è caduto. La propagazione è così. Luca, stavo scrivendo quel nome. Radio brutta, via. Quindi capisco anche un poco anch'io. C'è torti non mi sta incapito, c'è torti si abbassa e non capisco. È tutto qua. Rispondi tu Antonio, vai. Non lo so che la propagazione sta scende lì in Sicilia, ma già va bene lo stesso. L'importante è ascoltarci, poi del resto può scendere anche a segnare il 5 la propagazione, già ci sentiamo lo stesso. Ah, ti Luca, lo senti, sì? Sì. Antonello, Luca, è la anche a Bertine, vi saluto, ci dovremmo ascoltare a posizione, Luca Antonello, grazie mille, ciao ciao. Ok, riprendo io allora. Ciao l'amico di Siracusa, Giulio comunque, il terzo amico di Sassari in questo momento. Salutoni a te e a risentirci presto. Vai Luca. Luca, deve stare giocando anche a parecchio. Ciao amico della Sicilia, ci sentiamo alle prossime. Stammi bene, buon tutto. Ok, ciao di nuovo l'amico di Siracusa, d'accordo, ricevuto, stand by per te, ho capito, Giulio comunque, ripeto, Giulio dalla Sassari, nord della Sardegna, va bene, Luca, sei entrato? Sparito Antonio, Luca è sparito. Avevo una radio troppo, come dire, intanto stridola, e poi Antonio, e poi avevo quasi il per trappare, in poche parole, non lo so, forse aveva regolato male, non è che capivo molto bene. Un attimo di bianco per me. Antonio, quante volte stai usando tu? Luca, che radio era quello che stavi lavorando stamattina? A me giù. E ho detto, che radio era quello che stavi aggiustando o cosa stavi facendo stamattina? È un Realistic DX200, un ricevitore della Realistic. Ah, ho capito. E beh, cosa c'aveva? Perché non riceveva bene? O solo così una cosa tanto per avere un po' di manutenzione? No, gli ho fatto sì, tutta la pulizia dentro, qualche saldatura, ripresa, la colonnina era bucata, l'ho cambiata, insomma un po' di cose. Devo cambiare la lampadina dello strumento di sotto, della sintonia di sotto, però mi sa che li metto un pezzettino di striscia LED, perché non ce li ho quelle lampadine lì. C'ho quelle dei 140, ma sono gialline, che sono i biazzi. Ho capito, sì. Com'è una di quelle lampadine da 12 volt normali, quelle di microminio, oppure di quelle a siluro, come sono? Ah, quelle a siluro sono, però, capito, bianca vuole. Io ho quelle dei 140, quelle lì. No, ma già li metto un pezzettino di striscia LED da 3 LED e diventa bianchissimo, capito? Ok, allora devi metterci anche la resistenza allora. Se metti LED ci devi mettere anche la resistenza. No, nella striscia LED no. Hanno già la sua resistenza, capito? L'SMD. Non c'è bisogno di mettere quelle lì, non sono diodi, capito? Ah, la striscia LED, ho capito, ne tagli una fetta, ne tagli, sì, ho capito, cioè dal nastro tu ne tagli tre lampadine così e ci metti quella. Sì, perché sono ogni 3 LED, Giulio, ogni 3 LED c'è la resistenza, sì che sei obbligato a tagliare ogni 3 LED minimo, capito? Perché una resistenza fa per 3 LED. Sì, ma no, non avevo capito bene che usavi LED, pensavo che usavi i diodi quelli tradizionali, no? Oh, sì, la striscia lo so, ogni 3 LED c'è una resistenza di caduta, se no guai, se no poveri LED delle cose della striscia andrebbero a bruciarsi. Sì, ho capito. Vabbè, no, già vanno bene, poi hanno una luce bella bianca le LED. Ma poi sono anche adesivi, capito? Perché non faccio altro che staccare e metterlo così. Ho capito, io ne ho una bobinetta di LED, una striscia, non so quanto saranno lunghe quando è tutta quanta allungata, non so quanto può essere lunga, forse sarà un metro, forse anche di più. Addirittura si alimenta con due batterie da 1,5 volt, mi sembra che sia così, e poi non l'ho mai usata, l'ho solo provata con la, perché ha il pacco batterie, c'ha il coso, lo spinotto, può essere quello dell'auricolare, no? Dunque quella che proviene dalla striscia LED, tu inserisci questo spinotto dentro la presa del pacco batterie e si accende. Sì. E sarà lunga, un giorno la misura, vedere quanto è lunga, ma penso che ad occhio e croce sarà almeno un metro lunga. Io ne ho quelle blu anche, queste blu bianche, ma sono più comode, capito? Sono più comode. C'ho anche quelle lampadine, i LED classici, però dipende da dove li devi mettere, capito? Invece la striscia non fa altro che appiccicarla. Sì, e poi è già calcolata, la resistenza che hanno è già calcolata, mentre invece se metti i LED tradizionali, quelli che conosciamo da sempre, devi metterci la resistenza che ti devi calcolare, vabbè, già è facile, non è a secondo del colore del LED, hanno il voltaggio, già lo sappiamo. No? 1,5, 2,5, 3,5 di voltaggio a seconda del colore, diciamo che risulta il voltaggio del LED, e dunque in base a quello che usi devi fare il calcolo della resistenza. Sì, ho capito. Oh, ma guarda che le vendono anche già pronte, Giulio, capito? Aspetta che abbasso qua. Le vendono già pronte con la resistenza saldata, non è più come prima che devi comprare la resistenza da una parte, il LED dall'altra. Adesso vendono già tutto pronto con la guaina, con la resistenza già saldata e la guaina termorestringente. Tutto già pronto a saldare, capito? Non devi fare più come prima, comprare la resistenza, comprare la cosa, il LED. Ho capito, e vabbè. No, non sapevo che lo vendono già con la resistenza già appunto calcolata, e così è ancora meglio, così è ancora più facile, non devi fare altro che saldare i due fili e basta, e così è già funzionante, non devi calcolare niente e sei sicuro che non sbagli nemmeno il calcolo, per cui cui va bene così. Bene, bene, adesso ti scatto la fotografia di questa bobinetta che ho io, sempre striscia LED, che è avvolta. Adesso ti mando la fotografia, un attimo che scatto la foto e te la mando. Io c'ho il rotolo da 5 metri era, sia della blu che della bianca, di striscia LED. Antonello, ci sei ancora? Antonello non lo so, ma ci sono io, buonasera. Ah, i miei Gianni, quel caldo, a me già. Ho dormito come un sasso, non mi sono reso conto che era così tardi. Avevo una stanchezza retratta, devo essere, ma da quando ho fatto il vaccino, c'è più sacco, insomma. Così è, purtroppo, dolori a go-go. Che ci vuoi fare? Ormai ce l'abbiamo, non ce la tolgono. Ma l'abbiamo fatto che ce l'abbiamo fatto. Si pensava che fosse una cosa licita, invece mi pare che ragazzi cosa c'erano ragione i Novax. Sai cos'è? Siamo stati obbligati già, quello è il casino. Dal diabetologo, dal medico di famiglia, io ne ho fatto due, sono arrivato a due e boom, ma giù c'è un baffan piacere, capito? Se no si rompevano le scatole ogni santa volta. A me addirittura la diabetologia mi hanno chiamato, che avevo la prenotazione per fare il vaccino. Correndi per andare. Ciao Gianni, ciao Giù, ben sentito, va. Io tre ne ho fatto, lui, ne ho fatto tre purtroppo. Cosa devo fare? E anch'io ne ho fatto tre già, anch'io ne ho fatto tre, però la quarta non l'ho fatta, vabbè, intanto nel frattempo sembra che sia calato il fatto del contagio, però esiste sempre, non è che dobbiamo filare un po' troppo, perché c'è sempre il Covid in giro, anche da poco quasi saranno. La settimana scorsa ho sentito, soprattutto in Cina, dice migliaia addirittura di persone contagiate al giorno, sì che ti puoi immaginare quante che ancora non è debellato. Hai visto Luca quella bobina? Non so ad occhio e croce quanto può essere lunga, comunque sicuramente è più di un metro anche. Sì, ma è 12 volte quella però, sicuramente, solitamente. Ma mi sembra che sono due batterie, aspetta che guardo anche il pacco batterie che non me lo ricordo, se ce ne sono due o quattro dentro, adesso subito ti dico a quale voltaggio è perché guardo le batterie. Solitamente sono 12. Sì, Ruggero. Sto uscendo, sì. Allora, sono a 6 volt, Luca, perché ci sono 4 batterie di quelle di mini stivo, quelle sottili da telecomando, 4 ce ne sono in questo pacco batterie, che adesso ti faccio la foto e ti mando anche la fotografia del pacco. Le prendi già? Gappa. Cosa stai costruendo giù? No, niente, stavamo parlando delle strisce LED, no? E appunto, siccome questa ce l'ho già da un po' di tempo, ho voluto mandare la fotografia per sapere più o meno quanto può essere lunga. Adesso la bobinetta saranno di diametro, questa all'incirca ad occhio e croce saranno intorno ai 7 cm, ed è avvolto tutto il LED, tutto attorno, non so quanto possa essere lunga quando è tutto allungato, adesso non lo so, la verità, però comunque sicuramente più di un metro, senz'altro più di un metro. Adesso ti mando la fotografia, Luca, tu prendi. Manda. Non so se state parlando di quelle che c'ho anche io, che si tagliano a misura come voi due, però a saldarle è un casino, c'è la plastica sopra. Io solo con quelle blu non ho trovato problemi perché c'erano gli attacchi per saldare bene. L'altro invece quelle bianche c'erano la plastica sopra, bisogna levare la plastica eccetera eccetera. La plastica? No, io è una striscia adesiva già, ogni tre LED che rimangono sempre i due poli negativo e positivo, dove saldare i due fili per la 12 volte per alimentarli. Non vedo questa difficoltà. Ehi, un rotolo ce l'ho anche io, così come stai dicendo tu. L'altro invece, dove ci sono i punti per saldare, rimane la plastica sopra, mi devo levare la plastica per saldarli, perché se no non saldano, c'è la plastica sopra proprio gli attacchi. Ah, ecco, sì. Ne ho due rotoli, uno blu e uno bianco. Quelle bianche fanno una luce, ma allucinante, l'ho messo in un alimentatore, era anche troppo forte. Però non rimangono attaccati, si staccano, l'ho messi nel mobiletto all'interno, nascosti, in modo che non si vedano, e ho fatto tutto l'attacco bene, dopo un po' si staccano. Giulio, sì, stavo facendo una fotografia già. Luca, ti ho mandato la fotografia del pacco batterie. È un telecomando quello? No, non è un telecomando, è lungo all'incirca 10 cm. Hai visto che ci sono 4 batterie all'interno, infatti il tappo l'abbiamo aperto proprio per farlo montare. Adesso ti faccio vedere come è collegato, ti faccio la fotografia, la striscia collegata direttamente al pacco batterie accesa, te la mando. Però sempre a volta, non l'ho allungata. Vediamo un po', le prendi intanto già. Ma sono a batterie, i nuovi sono a 12 volts, si attacca direttamente all'alimentatore. Sì, anche questo, basta avere un alimentatore a 6 volt, tipo quello del telefonino, che per caricare il telefonino, chiaramente rispettando la polarità, il più e il meno, no? Funziona ugualmente, certo. Le prendi? No, le mie sono a 12 volts. Cioè, io ne ho preso due rotoli, una blu e una bianca, però ti ripeto, non sono adesive in modo come le volevo io, là, insomma, non attaccano bene. No, ma sono tutte così già, anche queste che ho io, dopo sono queste che ho immobili, alla fine le ho dovute attaccare con la termocolla, perché col tempo si stacca. O col biadesivo, ci metti il biadesivo che è più forte. Io c'ho, guarda, quello che prendevo io, il biadesivo, si poteva piegare la staffa del baracchino ma non si staccava. No, ma per staccare il biadesivo così no. Cioè, un conto devi mettere un centimetro, 10 centimetri. Un conto è quanto dei buoni 2 metri già, non vale la pena. Con la termopistola a un punto ogni 10 cm così bello per rimanere perfetta. Sì, perché poi come le luci scaldano la cola si stacca, capito, quella del biadesivo. E per forza il miniatura, cioè trasparente, giù mai la striscia di colla ce n'è una miseria proprio. E io l'avevo nascosto e purtroppo non si vedeva, no, facevo la luce. Addirittura ho preso anche tipo un neon blu così. Gli ho messo l'interruttore, io dall'interruttore lo accendo di notte, capito? E anche io avevo messo l'interruttore nel mondo. Giulio, luce calda, sì. Sì, perché ti spiego, nel pacco batterie c'è un adesivo, questo si attacca ad esempio all'interno dell'armadio dove ci sono gli abiti eccetera, adesivo, tu quando apri l'armadio accendi quello e vedi bene dentro quello che devi scegliere, ossia che sbagli clavata, non so mai. Questi sono quel tipo di LED che si mettono dentro gli armadi, appunto, sono a 6 volt probabilmente per quello, sai. C'è la striscia dall'altra parte dove si apre il pacco, o c'è l'adesivo, appunto, non so quanto possa reggere attaccato, comunque, perché un adesivo largo 7 mm, tra 8 mm, per una lunghezza di 10 cm, che è tutto lungo il pacco batterie, o Luca, dovrebbe reggere, se l'hanno fatto vuol dire che regge, ma non lo so comunque, perché non so nemmeno quanto può essere forte l'adesivo, perché c'è ancora la carta, perché se la tolgo lì è grosso però, il biadesivo, Giulio, quello è un biadesivo ed è grosso. E invece quello delle striscia, della striscia non ce n'è quasi, capito? Dura pochissimo. Sicuramente, no, quello ci vuole altro tipo di colla che regga, se no in 4 giorni si stacca subito, cosa non va bene così. Sì, sì, vabbè, io già ho un fix che è una colla che si mette con la pistola del silicone, ma tu devi vedere la forza che ha questo adesivo, addirittura anche sul muro, fra legno e muro, ferro e ferro, insomma qualsiasi tipo di materiale te lo tiene, che è una meraviglia. E poi non teme né i raggi ultravioletti, non teme l'acqua, non teme niente. Una volta che si è asciugato, che si asciuga subito in pochi minuti, ma è micidiale, è di una resistenza formidabile. Costa, un tubetto che costa intorno ai 13-14 euro, però è formidabile, si usa con la pistola del silicone. Vai Gianni. Ce ne sono di come furti. Adesso ce n'era una a Porto Torres in una bancarella alla festa di San Gambino, che attaccava il ferro proprio così, prima 10 euro costava un fattuccino piccolo, solo che bastava una goccia e ti chiedevano di staccarla, dopo che l'attaccavano ti chiedevano di staccarla, ci mettevi tutta la forza e non ci riuscivi. Sì, ma è così anche questo che sto dicendo io, che ho io, questo è fortissimo, è di una forza di fissaggio straordinaria, veramente, addirittura anche sul muro, si può immaginare che tiene presente che il muro è anche polveroso, vabbè, prima lo pulisci, è il punto dove devi mettere qualcosa, poi vuoi mettere, per dire che so io, un tassello attaccato al muro, attaccalo così, tienilo un minuto premuto contro il muro e poi lascialo andare, e poi dagli un po' di tempo per asciugarsi bene e vai e staccalo. Sì, l'intonaco te ne stacca, ma il legno dal muro non si stacca, e se ne stacca l'intonaco addirittura già. Vabbè, io ho attaccato la ciabatta al muro, quella del computer, l'ho messa un po' più su dello zoccolo e praticamente non si è mai staccata col biadesivo. Però quello che non mi ricordo come si chiama, Simplex, una cosa del genere, è l'unico che attacca bene, ne ho provato 1000. Quello che ha la carta rossa praticamente. Ho capito, sì sì. Beh, vabbè, poi altri tipi di biadesivo, ma quelli tipo carta trasparente, quelli non si può dire, vabbè, li usavo anche per lavorare io. Quando lavoravo su, ad esempio, sulla macchina, mettevi un pezzo di biadesivo con quello, perché sulla macchina, essendo di ghisa, non è che ci potevi mettere viti o chiudi, ci mettevi, per dire, non so, un supporto di legno, se modellato, lo attaccavi col biadesivo e poi tu il pezzo di là che dovevi lavorare lo appoggiavi sul pezzo che avevi fissato al piano della macchina, ma era micidiale. Poi a toglierlo chiaramente dovevi passare addirittura lo scalpello per staccarlo dalla ghisa, perché te ne usciva tutto a pezzi ed era insomma un po' difficile da togliere, e ce l'ho ancora, ne ho almeno un mezzo rotolo, tre quarti di rotolo, ma è largo quello è largo almeno penso un 5 centimetri. Vai Luca. Ha bisogno di usare. Sì, ma poi oggi ci sono quelle con le poliuretaniche, c'era quella a 1000 chiodi perché si usava parecchio, era fenomenale. No, poi a seconda cosa devi fare c'è anche, io uso parecchio anche la bicomponente, che anche sott'acqua io l'avevo messa quando avevo fatto lo scarico esterno all'acqua scooter, è micidiale quella bicomponente. Quello bicomponente è lo stesso, quello è micidiale veramente. No, questo ad esempio si usa, supponiamo il caso che io voglio fare un cerchio, voglio fare, no? Da una tavola che so io 30 cm per 30 e voglio fare un cerchio, uso il pantografo, uso e faccio un cerchio, però alla fine l'ultimo taglio, se tu non lo fissi il legno al piano, cosa succede? Che la fresa stessa te lo rovina un tantino, invece tu metti il biadesivo nel piano, passi tu il refilatore tutto attorno, ti fai il cerchio perfetto senza una minima inclinatura, niente, proprio questo. Se invece non metti il biadesivo, arrivati alla fine il pezzo un pochino si muove, perché anche le vibrazioni della macchina va a finire che tocca il coltello e un piccolo difettino te lo crea, tutto lì, avanti già. Trucchi dal mestiere. vabbè, sì è così, in effetti è così, te lo tiene fermo. I supporti naturalmente, se non ci sono, se non c'è l'adesivo, si muovono, certo. Luca. Oh, non si comprende nulla, Non si capisce. No, si capisce solo. Vabbè, Proparition ce l'è in questi giorni. Io sto ascoltando su 45. Ce n'era parecchio di gente. Ma su 45 c'è troppo bailare, ci parla l'uno sull'altro, a me non piace. Poco fa abbiamo fatto due collegamenti, anzi ci hanno chiamato loro praticamente, noi abbiamo risposto chiaramente. Ma giù, su 45 a me non piace, perché si sovramodulano tutti, è un bailame, è un accenno, non ci capisco nulla. E infatti nemmeno a me mi piace lì. Io mi diverto solamente quando ci va Massimiliano, che fa lui di ex sul 45. Perché? Perché lui è ben attrezzato e caspita, vi mette capo a tutti. E io quando c'è Massimiliano ci vado ad ascoltare lì su 45, però non entro mai, io sono 45, no. Io in tutta la vita sul 45 sono entrato, cioè massimo 10 volte, che ci puoi immaginare, se fa il conto in tutti questi anni, perché è stato sempre un canale troppo affollato e parlano l'uno sull'altro e no, se non hai potenza non ti rispettano più di tanto già. Devi avere parecchi watt di potenza in modo che possano, che li puoi mettere a cuccia a tutti quanti. Vai già. Sì, è così. Su 45 è così, è la legge del più forte. Infatti è per quello che ti ho detto che mi diverto quando ci va Massimiliano lì, che lui già è ben attrezzato e si fa rispettare. Caspita, a ogni chiamata lo rispondo, non c'è rimedio, va veramente bene. Infatti io ascolto così e mi diverto ascoltando. Avanti Luca. Si sposta, capito? Se riesce a chiamare qualcuno che ti risponde, devi ci spostarsi e è come un canale di chiamata, capito? Più che altro. Sai cos'è Luca? Non è che non ci arrivi lo stesso, però con 5 watt, 2 watt, 3 watt, cosa, ti schiacciano subito, perché arrivano quei camionisti con 1000 watt, ti puoi immaginare che razza di potenza che hanno, e non ne capi piedi. Invece se hai una bella attrezzatura di quelli 5, 6, 700 watt, come ha qualche amico qua, allora già ti fai sentire, ma diversamente con la potenza che ho io, ad esempio qua, non mi posso permettere di andare sul 45, perché intanto mi schiacciano subito, tutto lì, vai già. Intanto se non c'hai apparecchi modificati come loro, non ti rispondono nemmeno, devi fare le chiamate come le fanno loro, anche se no manco ti rispondono, già ti rispondono poco quando praticamente hai gli apparecchi modificati e non c'è molta potenza. È difficile, capito, che ti faccia entrare, perché parlano tra di loro. Infatti io quando vado su quei canali alti, magari vado, che so io, sul 52, 54, 55, su quei canali lì, allora lì incomincia a essere già diverso, lì puoi fare tranquillamente gli ex anche con 2 watt, per dire, ma su 45 non ci provo nemmeno, intanto lo so, sì, magari mi sentono anche, però arriva quello poi e ti schiaccia e dunque hai terminato di farti sentire. Vai Luca. A Coppa ci vuole la superpotenza, Coppa. La superpotenza ci vuole. In effetti ci vuole proprio la superpotenza, perché sennò no. spazio. Vai Lu. Se non c'è attrezzatura grossa sotto non si fa niente. K, avanti Gianni. Eia eia. Ehi, ci vuole potenza perché lì c'hanno tutti 1200-1300 watt, sono camionisti che hanno due lineari in parallelo e ti schiacciano. Sì, ma è così, in effetti è così, no? Poi con questa gente tra di loro diciamo che si conoscono, eppure anche se magari tu riesci a farti sentire, però sentono un amico subito e ti abbandonano subito perché magari gli è arrivato l'amico che si è già sentito altre volte, che hanno quella caratteristica di radio e quella potenza che fa sì che a loro piace e vabbè, e fanno bene se vanno avanti così, ci mancherebbe. Lascia perdere, quando hai 2 watt e 5 watt su 45 non c'è rimedio. Va bene, dai, vai già. Ehi, vabbè, anch'io qualche volta sono andato, ma solo per fare ascolto, ma tutto questo bailame non è che mi piaccia tanto, capito? È un affarranduio. Mi sembra un cocktail di modulazioni una sull'altra. E dipende sempre, capito? Loro lo fanno per provare la potenza, c'è chi mette 1200 watt, c'è chi mette 700 watt, e usano tutte apparecchiature potenti per vedere chi arriva più forte, è la legge del più forte lì. Sì, sicuramente, poi sono tutti alimentati anche a 24 volt, sicuramente, perché la batteria del camion è così, raramente ci sarà la batteria a 12 volt, ma magari le macchine piccole, ma le macchine grandi di solito hanno quel voltaggio lì. Va bene che anche nella macchina grande, se vuoi lo puoi alimentare a 12 volt, non c'è problema, basta utilizzarne una di batteria, intanto poi le batterie, lo sappiamo, sono messe in serie, per cui diventano 24 volt, ma tu ne utilizzi una e puoi ottenere solo i 12 volt e l'altra fa parte sempre della corrente che serve al camion. Sì, ma è così già, no? No, e poi non mi piace il modo, il tono, come si allungano loro, come tipo che so io, becco, becco, mamma mia, io odio quel tipo di modulazione, la verità. Vai Gianni, vai Luca. Ma è così, sono fatti apposta, Giulio, dai. Rimango in ascolto così facciamo entrare gli altri. Ok, va bene, dai, come vuoi. Capito già, perché no, però ripeto, quando vedo e sento qualcuno che gli dà filo alla torcia e la Sassari, allora già mi piace restare all'ascolto e così e commento da solo, capito, mentalmente così, non come te le macchine parlando da solo, ma mentalmente commento da solo. Vai già. E vabbè, esprimi una tua opinione mentalmente. E vabbè. Sono tutti, diciamo, ognuno si diverte come vuole, non è... Loro hanno questo metodo qua di chiamarsi, di fare, che a me sinceramente non mi piace manco a me, non è che... Sì, qualche volta sono entrato anche quando l'avevo parecchio modificato per vedere come girava, dicevo cambio per vedere come girava l'eco, capito? Però intanto sono cose, tipo questi apparecchi modificati, sono tutte cose che erano di passaggio, adesso non ne sta pisando nessuno. Infatti non è che adesso, perlomeno qui, io a Sassari non ne sento più camionisti parlando a baracchino. Prima già ce n'erano, mi ricordo ai tempi di quel tassista, ex tassista, ti ricordi? Come si chiama, non mi ricordo più, che abitava dalle parti di San Giovanni, che prima faceva il tassista e poi si aveva comprato un motocarro, lavorava col motocarro, che era sempre il Guttu, adesso non mi ricordo come si chiama, ma quello era proprio, per carità, era anche volgare nel modo come parlava. Aquila Savignogno. Lui, sì, proprio lui, sì. Ma penso che sia deceduto, non credo che sia ancora vivo. Mi ricordo che qualcuno mi aveva detto che era deceduto, tu niente ne sai. No, io l'avevo visto con un motocarro caricando piante nella serra che c'è vicino al cimitero lì. Stava caricando le piante. Ok, no, ma qualcuno, adesso non ricordo bene, ma tanto tempo fa qualcuno aveva detto così. Vabbè, comunque. Va bene. Beh sì, era proprio. Diciamo che era una vergogna, dai. Io la verità con lui ci ho parlato pochissimo perché non mi piaceva nel modo come si comportava in frequenza, troppo volgare, troppo maleducato era per conto mio. Vai già. Io qualche risata me la facevo. Ho detto, che olio ci metti nella venuta? E lui ha detto, olio F. sì. Vabbè, comunque. Vabbè, ognuno vive come crede, ci mancherebbe altro, però diciamo che un po' di serietà non guasterebbe mai, dai. Perché io ho addossato anche il fatto che la frequenza si sia ridotta così a pochi elementi come siamo rimasti, ho addossato anche la colpa a chi si comportava male nel passato, perché tanta gente si è allontanata anche per questo motivo. Ce ne sono altri motivi, anzi ce ne sono tanti, però questo è uno secondo me anche dei motivi principali per cui la gente si è allontanata dal malattino. Vai già. Diciamo che anche i tempi hanno cambiato, noi siamo rimasti dei conservatori, molta gente sa come si usa il computer, il telefono, quando ti vedono parlare con baracchino si meravigliano, ma cos'è quella cosa, non sanno con che cosa è Giovanni Luigi, hai capito? Sì, questo sì, Giovanni Luigi non lo conosco nemmeno, è vero, però voglio dire, prima era bello, era una grande famiglia, la nostra, anzi, numerosissima, la famiglia numerosissima di CB, era bello, oggi invece quanto siamo, scommetti se facciamo il conto così contando con le dita, non ci sono 15-20 persone, non di più, ma considerando che queste 15-20 persone magari le senti oggi e poi le prossime che senti oggi magari le senti fra 15 giorni o fra 3 mesi per dire, no? Alla fin fine siamo sempre 4-5, non di più, quelli attivi tutti i giorni, dai, diciamo. Vabbè, comunque meglio pochi muri, prima c'era un bel casino, non so se ti ricordi le portanti che c'erano, si poteva entrare perché c'era la portante, molti vaccini c'erano, vabbè che anche adesso ogni tanto se ne affaccia uno, ma prima era all'ordine del giorno. Proprio non si poteva modulare perché mettevano portanti di tutti e di più a Farradui, di tutti e di più via. Infatti io mi sceglievo sempre il canale dove c'era gente con cui si poteva parlare e gli altri li lasciavo tra di loro. Certo che sì, infatti era così. Io non sopportavo il fatto che prendessero in giro Paoletto, ti ricordi, perché io mi ricordo, era una persona malata purtroppo, e per conto mio la gente ne abusava troppo. Lo scherzo va bene, ma quando dura poco, ma se tu poi una persona che tra l'altro era malato ed è malato, perché so che è ancora vivo, vive a sorso, e tu lo prendi in giro continuamente, per conto mio non va bene, è una questione di rispetto anche, perché le persone vanno rispettate, non vanno maltrattate come hanno fatto con lui, che poi tra l'altro quelle persone che rilevano erano quelli che lo sfruttavano, perché quello là andava in pizzeria e pagava con il ragazzo, pagava, perché solo perché lui magari aveva disponibilità, aveva, visto considerato che era di una famiglia benestante, per cui non andava bene, insomma, ecco. E cosa tutto loro hanno fatto? No, anche a me dava fastidio, mi faceva pena a me. Io una volta me l'ho portato in macchina a fare un giro. E gli ho detto, non dire nulla, perché se lo poi fanno in frequenza ci mettono la malizia. E lui mi ha detto, lo sai com'era, con la testa bassa, tutto vergognoso, tutto al contrario di come era in frequenza. Tutto ben vestito, maglietta a fila, tutto tirato, capito? Però abbiamo parlato, cose, poi la compagna sta a casa, ha detto, meno no, non dico nulla. Certo, c'era col baracchino in macchina, cioè acceso, e senta lui. E come c'è poi? Perché sei contento? Sono andato giù con doppio ru! E tutti dicono, ma doppio ru, cosa l'hai fatto? E subito. Sì, perché la gente appunto non aveva rispetto, non è che pensavano questo ragazzo, poveraccio, è malato e non è il caso di prenderlo in giro, invece c'era gente che ne abusava, ne approfittava. No, io lo vedevo molto spesso, anche se poi non modulava più, per almeno anni, che so io, 3, 4, 5 anni, tu sai dove veniva? Tu hai presente quella cassoneria che c'era all'angolo di Pianura, che oggi non c'è più quel palazzo, ne hanno costruito uno nuovo, hanno buttato giù quello e hanno costruito, c'era la cassoneria, no? Il calzolaio, lui andava lì perché era amico di quel ragazzo che lavorava lì, di Angelo, di Mario, e andava sempre, di tanto in tanto lo vedevo che andava lì da questo Mario, erano amici, e stava anche 2-3 ore seduto lì vicino in questa calzoleria, e evidentemente erano molto amici con Mario, capito?